9. I soldi del giornalino. Tutti i giorni, a ricreazione, Alex e Joe spiano Tozzi e Debelli. Ma per un po' non succede niente di nuovo. Intanto esce il giornalino della scuola. C'è anche il testo di Alexandra e lei è molto contenta. Andrea è il direttore del giornalino, vende tante copie ai ragazzi e nel quartiere. Ma un giorno Andrea ed Emanuele entrano nella classe di Alexandra. Ragazzi, hanno rubato i soldi del giornalino. Ci aiutate a scoprire chi è stato? Dice Andrea. Joe, dobbiamo aiutare Andrea! Dice Alexandra a Giovanna. Secondo te sono stati Tozzi e Debelli? Chiede Giovanna. Penso di sì! Dice Alexandra. Anch'io! Dice Giovanna. All'uscita di scuola dobbiamo seguirli! Dice Alexandra.